Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 66. Puntata ricchissima di buon blues con variegati linguaggi interessanti, spero per tutti, lo sono stati per me durante l'ascolto e la selezione dei pezzi che stasera vi presenterò. Iniziamo subito con un personaggio molto conosciuto a livello internazionale che risponde al nome di Dr. John. Dr. John ha realizzato un bel CD intitolato City That Care Forgot, l'ha fatto insieme al suo gruppo The Lover 911 e questo pezzo che vi faccio ascoltare stasera intitolato We Get In There è stato realizzato con uno special guest veramente special, perché si tratta di uno dei più grandi trombettisti jazz degli ultimi anni a livelli internazionali, Terence Blanchard, veramente un grande trombettista. E quindi buon ascolto con Dr. John and The Lover 911 dal CD City That Care Forgot in We Get In There. My friends, he's coupled in with contract. For him is a hand of Rupert. On top of tons of property damage. Feel like his insurance company screwed up. My partner lost his jaw in his marriage. Like dominoes fall. Government. Someone talk about leaders. Bene, questo era l'inizio del nostro programma con un artista molto conosciuto a livello internazionale quale Dr. John, che insieme ai suoi The Lover 911, il gruppo che lo accompagna da tempo in questi anni, ha realizzato questo CD intitolato City That Care Forgot, con la presenza di alcuni artisti come special guest. In questo pezzo in particolare, intitolato We Get In There, avevamo il grande trombettista Terence Blanchard. Terence Blanchard è un trombettista che ricalca un po' l'atteggiamento di apertura del grande Miles Davis, che fino in fondo si mise in gioco addirittura con i musicisti di rap, proprio per dare un esempio di quanto il jazz possa aprirsi a vari linguaggi, a varie strutture, anche a volte molto lontane, proprio perché ha una capacità di abbraccio con la sua improvvisazione che permette l'aggancio con la musica classica, con la musica folk, con la musica etnica, con la musica quindi non a caso chiaramente e soprattutto blues, come in questo caso, ma anche con musiche contemporanee, con il pop, con la musica new age, eccetera, con tanti linguaggi. E Terence Blanchard appunto è un artista che si mette in gioco spesso con queste, attraverso queste collaborazioni, e questo suo intervento nel pezzo di Dr. John è sempre molto raffinato, e quindi è preziosa la sua collaborazione in questo disco. Un disco interessante, bello, che conferma la validità di questo artista, Dr. John. E adesso andiamo avanti con Eric Bibb, un altro artista interessante che nel 2012 realizzò questo CD intitolato Deeper in the Well, e dal quale io ho selezionato per voi Money in Your Pocket, ed è una composizione originale di Eric Bibb. Buon ascolto. Do you have money in your pocket, shoes on your feet? Do you have money in your pocket, shoes on your feet? Water in your well, food on your table to eat. Do you have kin that you can call on when you're in a jam? Do you have kin that you can call on when you're in a jam? I'm here to tell you I do and how blessed I am. I got a good steady job, a roof over my head. I got a good steady job, a roof over my head. Got a kind-hearted woman, a warm blanket on the bed. My doctor pronounced me a healthy man. When I went to see my doctor, he pronounced me a healthy man. I'm here to tell you I know how blessed I am. Thank you. bank, but it wasn't always so. I have money in the bank, but it wasn't always so. I have stories I could tell you, but I believe it's time to go. Questa era la voce di Eric Bibb, Eric Bibb che si presenta con la sua veste cantautoriale, questo bel timbro particolare che accompagna ogni pezzo con intensità, con partecipazione. Deeper in the Well è il titolo del CD pubblicato nel 2012 e noi ci siamo ascoltati Money in Your Pocket, una sua composizione originale, sicuramente tra le più coinvolgenti e interessanti di questo bel CD. Adesso andiamo avanti con un artista che invece si presenta per la prima volta nei nostri programmi, per la Alligators, che è una delle case discografiche di blues più prestigiose al mondo, ha realizzato un CD intitolato Don't Call No Ambulance e il pezzo che ho scelto per voi è intitolato Walking in the Lion's Den. Buon ascolto con Selwyn Birchwood. Walking in that lion's den, shaking the hornet's nest, Lord, I'm rattling the tiger's cage, and I ain't done nothing wrong. I feel the heat through the doors, I put the key to the lock before it swings free, Lord, there's something wrong. She can't be content with serenity, this misery, she loves company. Oh, I'm looking, I don't got straps on my back from the tongue lashings I didn't provoke. Lord, I'm tiptoeing across broken glass, I better watch my step. Oh, it could be my last, Lord. I'm walking lion's den, shaking the hornet's nest, Lord, I'm rattling the tiger's cage, and I end up nothing wrong. Gonna see a meat, Lord, I'm walking lion's den shaking, the hornet's nest, Lord, I'm rattling, the tiger's getting, I ain't done nothing wrong, I ain't done nothing wrong, Lord, I can't take this much more. Un timbro particolarissimo, una grinta niente male, ma nello stesso tempo sa essere anche morbido e dolce in certi passaggi, in questi slow. Sicuramente un artista che merita la massima attenzione, con un bel ensemble di musicisti molto preparati che sanno rendere prezioso ogni commento musicale. Selwyn Birchwood, dal CD Don't Call No Ambulance. Il pezzo è una sua composizione originale intitolata Walking in the Lion's Den. Il CD è stato pubblicato dalla Alligator. Dopo Selwyn Birchwood è il momento di dare un po' di sprint alla trasmissione con Doc Holliday, la sua band. Il CD è intitolato Good Time Music e ci ascolteremo una composizione intitolata Black Cat, Doc Holliday Band. Buon ascolto. Big time. questo era il blues rock di Doc Holliday. Doc Holliday con la sua band, che dal CD Good Time Music ci ha fatto ascoltare la sua composizione originale intitolata Black Cat. La Doc Holliday Band si esprime con una certa forza, pur magari non arrivando a certi livelli espressivi che sono tipici di certe band di blues rock, però sicuramente si avverte la grande forza, la grande energia che riescono a impiegare nei loro pezzi, nelle loro composizioni, e tutta la band è ricca di elementi interessanti. Dopo la Doc Holliday Band è il momento di Eric Gales. Eric Gales ha realizzato un CD intitolato Ghost Notes, che ho ascoltato veramente con piacere. Ho scelto proprio il pezzo che dà il titolo all'album. Buon ascolto quindi con la musica di Eric Gales dal CD Ghost Notes. Thank you. Gran bella performance quella che ci ha offerto Eric Gales dal CD Ghost Notes. Eric Gales è un musicista che sta cercando già da tempo una via propria al blues rock, con degli esiti molto interessanti, molto stimolanti. È un musicista che ha delle aperture nella testa e che quindi riesce a mettere in pratica ogni originalità che gli nasce dal punto di vista compositivo, e la sua band lo segue con grande capacità, con grande prontezza anche nell'esecuzione di certi assoli che sono sempre molto creativi, molto stimolanti. Eric Gales ce lo siamo ascoltati in Ghost Notes, tratto proprio dall'omonimo CD. Adesso andiamo avanti con Doug McLeod, che nel 2011 ha realizzato un CD intitolato Brand New Eyes, dal quale noi ci ascolteremo The Nature of the Man, una sua composizione originale. Doug McLeod, buon ascolto. Will you excuse me? I'ma walk my line, making myself on my own sweet time, you understand? It's just the nature of the man. You know if I got a buddy, he's out in the cold, we'll commit my own with another old, you understand? It's just the nature of the man. Don't need nobody scandalize my name. Been done before without any shame. And I don't like these people, they got so much to say. I had enough of that to last the rest of my days. So you excuse me, I'm gonna walk on my line, making myself on my own sweet time, you understand? It's just the nature of the man. And I don't need money and heirs, make my life. Good guitar, good woman, I'll make it all right. Mm-hmm. It's just the nature of man. And I don't need to hear no more you high tone jive. Don't you know, man, you just wasting my time. Mm-hmm. It's just the nature of man. Nobody scandalize my name. Been done before without any shame. And I don't like people, you know, with so much to say. I had enough of that to last the rest of my days. So you excuse me, I'm gonna walk my line, make it myself on my own sweet time. It's just the nature of the man. Like cross-eyed cats, where they talk about this, I believe they're thinking about that. Mm-hmm. It's just the nature of the man. Don't need nobody scandalize my name. Been done before without any shame. And I don't like these people that got so much to say. I had enough of that to last the rest of my days. So you excuse me, I'm gonna walk this line, making myself on my own sweet time. It's just the nature of the man, nature of the man. Ain't that hard to understand? Nature of the man. E ci siamo ascoltati la voce e la chitarra anche di Doug McLeod con il suo blues country e la sua cadenza particolare, la sua voce inconfondibile, il suo accompagnamento gradevole con la chitarra. Brand New Eyes è il titolo del CD pubblicato da Doug McLeod nel 2011 e stasera ci siamo ascoltati The Nature of the Man, una sua composizione originale. Doug McLeod è un compositore, un cantautore che, come dicevo prima, spazia tra il blues e il country nella grande tradizione della canzone americana. Adesso un personaggio conosciuto a livelli internazionali, si tratta di Duke Robillard, che torna a Blues Fires con il CD Independently Blue, e il pezzo che ho selezionato per voi è intitolato Growing Slow. Anche questo CD è stato pubblicato dalla casa discografica Alligator. Buon ascolto con Duke Robillard. Like I'm barely holding on. I'm getting old now, darling. Feels like I'm barely holding on. Well, I'm a lover, not a fighter, and I ain't never been too strong. Just what it takes, honey, and I can really make you go. I got just what it takes, baby, and I can really make you go. Now I don't move too fast, honey, but I sure can groove you slow. Slow grooving is the key. Duke Robillard, il suo sciolto fraseggio chitarristico è sempre gradevole all'ascolto, molto bravo sia come cantante che come chitarrista, e come chitarrista ha proprio un linguaggio personale che mantiene sempre questa scioltezza, questa freschezza di interpretazione. Duke Robillard ce lo siamo ascoltati in Growing Slow, il pezzo che è tratto dal CD Independently Blue, pubblicato dalla Alligator. E dopo il bravo e conosciuto Duke Robillard continuiamo con Earl King. Earl King ce lo potremo ascoltare stasera in una composizione originale intitolata Babysitting, tratta dal CD The Sonnet Blue Story, uno dei suoi più bei dischi. Earl King, buon ascolto. While you out doing the town, I'm home babysitting while you out doing the town. But one of these days when you come home, you're gonna find me and the baby gone. I work 6 days a week, 48 hours on my feet. I work 6 days a week, 48 hours. Gamble my pay away, and you hit the bottom every day. Girlfriend Lucy May would be. while your man was making love to you, good old Lucy May was making love to you. È sempre piacevole, è sempre interessante ascoltare anche la grande tradizione, e oggi ce la siamo ascoltata attraverso uno dei suoi interpreti più interessanti, Earl King, attraverso il CD The Sonnet Blues Story, e ci siamo ascoltati questo pezzo intitolato Babysitting, una composizione originale di Earl King. Adesso ci ascoltiamo, come sempre nelle puntate di Blues Fires, anche del buon blues italiano, in questo caso un soul italiano. È una cantante veramente interessante che io ho scoperto, ahimè, da poco, ma l'importante, come si suol dire, è il tempo presente, quindi l'importante è che appena io l'ho scoperta mi sono premurato subito di promuoverla in questa mia trasmissione, perché la considero una delle giovani cantanti blues, soul, rhythm blues italiano, non solo più promettenti, ma già una realtà tra le più interessanti, meritevole della massima attenzione. Sto parlando di Sara Zaccarelli. Sara Zaccarelli, che ha avuto anche l'invito al prestigioso Porretta Soul Festival, che l'ha vista protagonista insieme a grandi artisti internazionali, che promuovo in Blues Fires con un'interpretazione molto bella, molto interessante, di un cavallo di battaglia della mitica Aretha Franklin. Si tratta di Rocksteady. Sara Zaccarelli con la sua soul band è insieme all'ottimo chitarrista Bob Dusi, di grande esperienza, Michele Iaia alla batteria e Rita Girelli al basso elettrico. In questo pezzo abbiamo anche i cori di Vanessa Vaccari, Martina Fregola, Messalina Fratti, Daniela Peroni e Martina Casadei. Buon ascolto quindi con Sara Zaccarelli in questo bel live di interpretazione di Rocksteady. Let's go. Questa era Sara Zaccarelli, veramente notevole questa giovane cantante con la sua soul band formata da Bob Dusi alla chitarra elettrica, Michele Iaia alla batteria e Rita Girelli al basso elettrico con i cori di Vanessa Vaccari, Martina Fregola, Messalina Fratti, Daniela Peroni e Martina Casadei. Una cantante sicuramente dotata di grandi capacità tecniche, ma anche veramente di una carica espressiva notevolissima che impreziosisce ogni sua interpretazione. Ce la siamo ascoltata in Rocksteady, scritta da Aretha Franklin, un pezzo molto impegnativo che solo una cantante di grandi doti, di grandi potenzialità può interpretare, così come ha fatto la nostra Sara Zaccarelli. E adesso siamo in chiusura, ultimo pezzo della serata. A proposito di grandi voci, chiudiamo con una voce del passato, la grande Ruth Brown, che dal The Best 2 ci farà ascoltare I'll Be Satisfied. Buon ascolto con la grande Ruth Brown. E questa era Ruth Brown, la grande cantante americana scomparsa nel 2006, che abbiamo potuto ascoltare attraverso questa bella interpretazione di I'll Be Satisfied, un pezzo che mette in evidenza le sue grandi doti espressive, la sua voce graffiante e potente, un artista della quale forse potremo anche ascoltare qualcosa in più, dovremmo ricordarla maggiormente. Ruth Brown dal CD The Best Two. E con questo pezzo di Ruth Brown si conclude anche la puntata numero 66 di Bluesfires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci da Bluesfires.